Ay, Nico. Posso fare in quel gangster, ma poi la gente detesta chi non lancia la verità in testa. Ripeto, posso fare anch'io il gangster, ma poi la gente detesta chi non lancia la verità in testa. Lancia, lascia la, mangia, mangia chi ti manca, sfascia l'eleganza, caccia chi ti infanca, ammazza la traccia. Pensi di buttarmi giù con due critiche, ma non lo stesso senso delle leggi politiche. Studia, studia, studia, me l'hanno sempre detto, ma non sanno chi sono e cosa c'ho nel cassetto. Se fumassi quello che fumo io ci rimarresti scemo, tipo una calda mezzo etto. Non ne vado fiero, però mi allevo ogni pensiero. Va nel panico quando c'è Nico, vai nel panico. In fondo è una nuova era, io vengo da quella con il new era. Al contrario, quella era che se prendevi una nota sul diario finivi morto ammazzato sul divano. Prima c'era più rispetto verso i genitori, prima si insegnavano i valori, ora le cose per l'Instagram Stories. Per qualche follower si vendono l'anima, hanno creato un nuovo locale follower Caritas. Devi stare tozzi, guardo gli aumenti degli ascolti, la tua gang tutti morti per un post-it. Siete i più forti, perché non me lo dimostri, dopo me c'è la fine. Tu sei come quando ti prepari il fritto triti, ma poi sei senza cartine. Ehi, hey, ehi, hey. Nico.